Capitolo terzo. Credere negli angeli. La certezza dell'esistenza degli angeli è il secondo articolo del credo islamico. L'esistenza degli angeli è verità, benché la realtà angelica non rientri nel raggio di azione dell'esperienza umana, poiché di essa è Allah l'Altissimo che ci informa nel sublime Corano. Allah è la verità, e perciò tutto quello di cui Egli ci informa è verità. Allah è l'Onnisciente, Egli tutto sa, e perciò non dà notizie errate sulla realtà riguardo alla quale ha voluto darci informazione. È quindi da Allah e soltanto da Lui che possiamo avere informazioni vere sugli angeli. Gli angeli sono creature e quindi non hanno natura divina, anche se invisibili. In quanto creature, come gli uomini, essi non hanno titolo per ricevere dagli uomini un culto, né hanno il potere di fare grazie. Il culto degli angeli, l'angelolatria, è grave peccato. Gli angeli sono ministri di Allah, del quale essi eseguono gli ordini con assoluta fedeltà e precisione, essendo essi privi per loro natura di libero arbitrio, non hanno la possibilità di fare diversamente da come è stato loro ordinato di fare da Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo. La ribellione, quindi, è completamente impossibile alla natura degli angeli. Gli angeli sono creature del cui sesso Allah non ha mai rivelato il genere. Ma al tempo del profeta Muhammad, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, gli arabi idolatri credevano che gli angeli fossero di sesso femminile e fossero figlie di Allah. Allah, rifulga lo splendore della sua luce, ironizza su queste credenze quando chiede nel sublime Corano: a voi arabi i maschi e a lui Allah le femmine? E ancora: per affermare che gli angeli sono femmine, eravate forse presenti alla loro creazione? Per quanto riguarda il numero degli angeli, soltanto Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, lo conosce, e di alcuni di essi ha rivelato i nomi. Gabriele, Gibril, è l'angelo per mezzo del quale Allah ha fatto ascendere nel cuore del profeta Muhammad, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, il sublime Corano. Ci sono gli angeli che scrivono le azioni degli uomini, quelli che portano il trono di Allah sono 8, quelli che aiutano i credenti, quelli che guardano le porte dell'inferno sono 19 e quelli che guardano le porte del paradiso, quelli che nella notte del decreto divino portano a ogni cosa il suo destino, quelli che adorano Allah girando intorno alla Kaaba celeste. L'angelo Michele, Michel, è nominato nel Corano insieme a Gabriele, Gibril, chiamato anche Namus. Un angelo, Israfil, è il suo nome, suonerà alla tomba che darà il segnale della fine del mondo. Munkar e Nakir sono i due angeli della morte.